Io vi amo perché non siete innamorato di me. Un altro al vostro posto avrebbe cominciato a inquietarmi, a importunarmi, si sarebbe lasciato andare ai sospiri, ammalandosi. E voi invece siete così caro. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, è mercoledì 22 giugno del 2011. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. È il 22 di giugno, domani è il 23. Se la matematica non è quella che sembra un'opinione. Domani sera qui, nella sede di Radio 24, faremo una di quelle cose che si fanno di solito in estate, all'inizio dell'estate o verso la fine dell'estate. In questo caso accade per forza adesso, per il semplice fatto che il programma è iniziato a settembre e fra una decina di giorni finirà. Però in generale le serate come queste, i concerti, i festival, le sagre, gli spettacoli si tengono in gran parte proprio in questo periodo dell'anno. E il più delle volte queste serate sono una scusa per poter uscire di casa, no? Cioè, un modo per andare da qualche parte, per non starsene lì in casa dove si è passato tutto l'inverno. Ci saranno, pare, 600 persone domani sera. Forse qualcosa di più, forse qualcosa di meno. E questa cosa mi fa felice, ovviamente, ma mi stupisce anche, perché immaginare che tutte quelle persone domani usciranno da casa propria, prenderanno un'auto, un treno, un tram, una bicicletta, magari a piedi, e verranno fino a qui a Radio 24, mi dà una piccola scossa lungo la schiena. Mi piace pensare che quella di domani sarà una serata diversa, per me sicuramente, ma anche per voi, una di quelle serate che a ripensarci, magari tra qualche mese o tra qualche anno, faccio uscire un sorriso, o magari anche una smorfia. Ma che in qualche modo uno si ricordi dell'estate del 2011 anche e un po' per la serata di domani. Non ho ancora capito bene se l'estate è partita ieri o oggi. Sta di fatto che i prossimi 3 mesi saranno sicuramente pieni di serate all'aperto. A parte la nostra che è al chiuso, ma tant'è. Se qualcuno di voi organizza, partecipa o anche solo è a conoscenza di cartelloni estivi che riempiranno le notti del paese, del quartiere, della regione, dell'isola, della città in cui vivete, oggi è il momento per pubblicizzarle. Festival, concerti, teatro, musical, cabaret, illusionismo. Io oggi e per questa estate sono qui. E il numero è 80024 0024 per chiamare in diretta e promuovere, oppure 349-238-6666 per mandare un sms. Allora, lo ammetto, mi piacerebbe tanto avere degli organizzatori. Cose tipo la Proloco. Esistono ancora le Proloco? Certo che esistono le Proloco dei paesi. O anche semplicemente associazioni culturali o enogastronomiche che vanno per la maggiore in quest'ultimo periodo. Chiunque abbia organizzato un piccolo cartellone, bastano direi 2-3 serate per fare un cartellone, che magari parte stasera, magari è partito ieri, magari parte tra un mese, però qualsiasi persona abbia organizzato e vuole promuovere il proprio mini o macro cartellone qui, 80024 0024, 349 238 6666. Io l'ho fatto per un mese d'altra parte per promuovere una serata secca, mi sembra carino darvi questo minutino per promuovere le vostre serate, che siano più di una o anche una sola. Ad esempio Maria Antonietta, 25 giugno, Tuscania, passeggiata nel bosco dalle 19 alle 22 nella necropoli etrusca della Peschiera Tomba del Dado, fino alla necropoli etrusca di Pian di Mola. Marco, Caffeina Cultura Viterbo, dal 30 giugno al 16 luglio. I nomi, ragazzi, i nomi sono la cosa che preferisco. Aspettate un attimo, eccolo qua. Elisabetta, questa sera comincia a Pandino. Che già uno dice Pandino in invenzione, invece no, Pandino è un paese della provincia di Cremona. Cominciano questa sera le 5 serate Pandino sotto le stelle. Musica, sport, spettacolo, mostre e mercatini. Scusatemi. Grazie Filippo. Ovviamente inaugurano la prima serata le majorette di Pandino, e su questo non abbiamo dubbi. Elisabetta, conosciamo ormai lei e le sue majorette. Giorgio, dal 1 al 10 agosto a Castronuovo di Sicilia, un paesino di 3.000 anime, cominciano i giochi senza quartiere. Munciuta da crapa, scurciata de patate, corsa da gaddina, manciata de dumulune, corsa con i sacchi e giochi antichi che sanno sempre far divertire. E poi ancora cose più personali, magari meno di paese. Marta, Olivia, o Olivia o Marta, insomma. A casa dei miei genitori a Treviglio, in provincia di Bergamo, il festival della polenta d'agosto, cene a base di polenta seguiti da reading vari della figlia, cioè io, sul tema vivere d'arte e non solo. Disponibili brande per tutti e foto ricordo con Anna Maria la cuoca e il cane Pilar, non mancate. Che meraviglia, ma anche che tristezza. Susanna, Piacenza, giugno e luglio, i venerdì sera piacentini, giochi, spettacoli, negozi aperti e mostre. Tutto questo ha su di me un potere comico dirompente, ma non è perché le apprezzo moltissimo. Ricordo con grande affetto le serate al Varallino fuori Romentino. Valentina, a Monte Fiascone, provincia di Viterbo, 23 luglio, 1 agosto. Potrei leggerveli tutti, ma preferisco sentirli da voi. 800 24 00 24, 349 238 6666. E poi c'è l'idolo assoluto di questa giornata, che si firma Zio Ste, quindi facciamo che si chiama Stefano. Oriolo di sera, Faenza. Siamo quattro amici, i più disorganizzati che ci siano. Organizziamo un festival che si chiama Torre di Riolo. C'è anche un sito, torrediriolo.it. Allora, la prima volta 8 anni fa cominciavamo alle 7 e alle 5 dovevamo ancora caricare il chiosco costruito nell'officina di un mio amico nel camion e portarlo su alla torre, che credo di avere capito è dove si svolge il festival. Un'altra volta abbiamo stampato i manifesti, ma ci siamo scordati di portarli all'ufficio affissioni. Con i volantini usciamo 2 giorni dopo che è cominciata la manifestazione. Eravamo 4 contadini, chiude così il messaggio, eravamo 4 contadini. E poi manda un breve elenco dei live che abbiamo fatto. Letture, teatri, è tutto al plurale. Letture, teatri, proiezioni di partite della nazionale. Qui, Stefano, però non è che mi puoi fare copia e incolla e mandarmi la roba, sarà dell'anno scorso questa. Giocoleria, percussioni varie, danza del ventre, flamenco. Io non ho resistito e sono andato sul sito terrediriolo.it. Io vi consiglio di andare a dare un occhio al PDF, io me lo sono anche stampato. Allora, il PDF di Oriolo di sera ha la copertina che sembra quella di Un bacio perugina. Avete presente? Il blu con le stelle. Dice musica, vino, gastronomia e sorprese del territorio. E sotto il claim è sfuggi all'afa cittadina, con 2 punti esclamativi. Adesso arrivo, scusatemi, che voglio assolutamente leggere alcune delle serate. Ad esempio, questa sera, 22 di giugno, Claudio Molinari e affini. Chitarra, voce, basso, voce, batteria. Il 29, Lunatic Fanatic. Vi faranno sballare, ballare, con un originale mix di rock and roll, country, blues e soul. Aia, qui c'è già subito la paura della musica country. E poi, 6 di luglio, Gruviglio, una band a ritmo incalzante. Poi ancora, 13, Voodoo Sound Club. 20, Sunburst. 27, Zenigma Project. Oh, Stefano, ma ce ne fosse uno che conosciamo. 23, Soul Idea. Vabbè, volevo leggere anche, però, Tiziano, volevo leggere anche gli sponsor della serata. Gianni Neri, recinzioni metalliche e cancelli, automazione e impianti sportivi. E poi ancora, abbiamo Barchi Auto di Barchi Loris, perché questi sono gli annunci in cui la gente scrive ancora prima il cognome e poi il nome, come questo. Imprese Edile BFB di Fragori, Marzio e Alex, SNC, via Fratelli Rosselli, Faenza. 800 24 00 24, 349 238 6666. In attesa della serata di domani, io anche ieri sera non mi sono fatto mancare niente. Ciao Matteo, sono Nonna Papera. Da piccolo avrei dato qualsiasi cosa per ricevere una lettera che cominciava così. Ci sono voluti 30 anni perché il mio sogno si avverasse. Allora, per chi se la fosse dimenticata o non l'avesse sentita, Nonna Papera è il soprannome che tutti, anche lei stessa, danno alla dipendente della biblioteca dove ho lavorato per circa un mese, qualche tempo fa. Forse perché faceva delle torte molto buone, o perché aveva gli occhiali, forse perché il suo collega si chiamava Ciccio, questo non l'ho mai saputo. Quello che so è che dopo una tragica cena a base di incubi adolescenziali e il ritorno di Giovanni Denaro, che avevo sostituito per 4 settimane, io ho smesso definitivamente di sapere nulla di quel posto e di quelle persone. Fino a ieri mattina, quando ho ricevuto una mail che cominciava più o meno così. Ciao Matteo, sono Nonna Papera. Dopo un po' di convenevoli è arrivata al punto. Non mi aveva telefonato solo perché aveva accuratamente evitato di lasciare il mio numero, ma la sua richiesta era molto urgente. La biblioteca, cioè lei, aveva organizzato un reading per ieri sera, per celebrare il solstizio d'estate, che appunto nessuno sa esattamente quando sia, però Wikipedia dice che è il 21 di giugno e quindi è il 21 di giugno. Avevano deciso di leggere per intero, in una sorta di maratona, Le notti bianche di Dostoevsky, libro che io peraltro ho sempre snobbato. Quindi con un tono molto gentile mi chiedeva se potevo partecipare a una staffetta di lettura, perché a ognuno sarebbe toccato un pezzo e lei, sicura che io avrei accettato e soprattutto che non avrei avuto di meglio da fare, mi aveva anche allegato qual era il brano assegnato a me sulla mail. Devo dire che mi sorprende sempre quando qualcuno è così sicuro di sé e delle cose che fa da risultare contagioso. Avete presente il tipo, no? Ecco, quel tipo lì mi sorprende e mi provoca un certo senso di invidia, perché poi, allora, a quelle persone le cose vanno sempre bene. E sono così sfrontate che anche se gli va male, sono capaci di fregarsene, perché tanto la prossima volta ci riproveranno. E infatti, nonna Papera ci aveva ragione. Ieri sera non solo non avevo niente di meglio da fare, ma leggere Dostoevskij in pubblico e per puro divertimento mi sembrava una bella idea. Allora, le notti bianche, ho scoperto, si svolge a San Pietroburgo, nel periodo dell'anno in cui il sole non tramonta quasi mai. Ed è la storia di un tizio che racconta la sua vicenda di quasi amore, ma più che altro di chiacchiere, con una donna che dopo aver parlato per 4 giorni, appena torna al fidanzato, lo molla in mezzo a una strada. È una cosa malinconica da morire. L'ho letto ieri in 3 ore. Questo è il pezzo che avrei dovuto recitare. Oggi è stata una giornata triste, piovosa, proprio come la mia vecchiaia futura. Mi si agitano per la testa pensieri strani, sensazioni oscure affollano la mia mente, problemi per me ancora poco chiari e che io non ho né la forza né la voglia di risolvere. Non sono problemi che posso risolvere io. Oggi non ci vedremo. Ieri, quando ci congedammo, il cielo cominciava a ricoprirsi di nuvole e si alzava la nebbia. E dissi che domani sarebbe stato un brutto giorno. Lei non rispose. Non voleva contraddirsi. Per lei questo giorno è luminoso, è chiaro, e neppure la più piccola nuvola offusca la sua felicità. Se dovesse piovere, non ci vedremo, mi disse, non verrò. Pensavo che non si sarebbe accorta della pioggia di oggi, ma non venne lo stesso. Ieri ci fu il nostro terzo incontro, la nostra terza notte bianca. Come la gioia e la felicità rendono l'uomo sublime, come sussulta il cuore per l'amore. Sembra che lo si voglia riversare tutto in un altro cuore, si desidera che ogni cosa si allegra, che ogni cosa rida. E com'è contagiosa questa gioia. Ieri, nelle sue parole c'era una tale tenerezza e nel suo cuore una tale bontà, come si preoccupava per me, come mi adulava, come incoraggiava e inteneriva il mio cuore e come era civettuola nella sua felicità. E io lo prendevo tutto per moneta buona. Io credevo che lei... Dio mio, come potevo pensare una cosa simile? Come potevo essere tanto cieco quando già un altro aveva preso tutto e niente mi apparteneva? Quando infine la stessa tenerezza, la sua preoccupazione, il suo amore, sì, il suo amore, non era nient'altro che la gioia per il prossimo incontro con l'altro, il desiderio di imporre anche a me la sua felicità. Quando egli non venne, quando l'avevamo aspettato invano, lei si accigliò, divenne timida, paurosa. Tutte le sue parole, tutti i suoi movimenti non erano più così spontanei, colmi di quella gaia allegria. E, cosa strana, raddoppiò. E cosa strana, raddoppiò la sua attenzione nei miei confronti, come se istintivamente desiderasse riversare su di me i suoi desideri, la sua paura che tutte le sue aspettative non si potessero realizzare. La mia Nastenka diventò così timida, così impaurita, sembrava aver capito il mio amore ed essersi impietosita per questo mio povero sentimento. Quanto più siamo infelici, tanto più profondamente sentiamo l'infelicità degli altri. Il sentimento non si frantuma, si concentra. Arrivai da lei con il cuore stracolmo e a malapena riuscii ad aspettare il nostro incontro. Non avevo previsto quello che avrei sentito ora. Non avevo previsto che tutto sarebbe finito in quel modo. Lei splendeva per la gioia. Aspettava la risposta. La risposta era lui stesso. Egli avrebbe dovuto venire a correre alla sua chiamata. Nastenka arrivò un'ora prima di me. All'inizio rideva per ogni mia parola. Incominciai a parlare, ma poi mi tacqui. Sapete perché sono così contenta, disse. Così contenta di vedervi. Sapete perché oggi vi amo tanto. E allora? Domandai. E il mio cuore trasalì. Io vi amo perché non siete innamorato di me. Un altro al vostro posto avrebbe cominciato a inquietarmi, a importunarmi. Si sarebbe lasciato andare ai sospiri, ammalandosi. E voi, invece, siete così caro. Take me now, baby, here's I. Un po' una boiata, roba che non pensavo che Dostoevskij ne avesse scritte. dico che fosse una boiata in senso critico assoluto, no, dico solo che era una palla sentire sempre di donne che ti sbattono in faccia la loro gioia per il loro amore, per un altro però, facendo finta di non capire il vostro sentimento per lei. Io una storia così l'avevo vissuta, era una ragazza che si chiamava Rossella, mi aveva quasi intossicato, ma ormai ero coinvolto, non potevo tirarmi indietro. E allora ieri sera sono andato al Reading e l'ho letto quel pezzo. E Nonna Papera era felice, e anche Ciccio, e Giovanni Denaro, e Pico De Paperis, e la ragazza che studiava legge, e quella che faceva le pulizie, perfino gli ispettori, erano tutti lì a celebrare l'inizio dell'estate, ascoltando la fine di un amore che non era nemmeno mai sbocciato. Quando si dice prendere solo il peggio delle cose, no? L'ho letto con rabbia, con cattiveria, dando alla voce della ragazza un'intonazione odiosa, sperando che si sentisse. L'ho letto ripensando a Rossella, a quanto male mi aveva fatto. L'ho letto anche un po' immaginando che Natalie, a migliaia di chilometri di distanza, potesse sentire quanto avevo bisogno di lei, adesso. Alla fine è stata una bella serata, insieme a persone vagamente serene, chiacchierando della mia breve vita da bibliotecario, conoscendo gente di quartiere, gente che ha voglia di stare un po' con gli altri, bevendo birra e Sprite. Tornato a casa, ho preso il mio diario e dopo aver scritto due righe, l'ho girato. L'ho girato perché là dietro ci sono le parole che Natalie non mi ha mai detto, ma che ogni tanto in questi mesi mi ha scritto. E ho letto una sua riga di chissà quando, che diceva così: forse non sono fatta per vivere in coppia, ma ti amo. Domenica 26 a Gessate, ore 21, Tango sotto le stelle, concerto con ballerini professionisti organizzato dall'associazione musicale Armonia. Maurizio, allora, possiamo fare un patto con tutti quelli che stanno ascoltando e organizzano, ormai è tardi, per l'anno prossimo, organizzano qualche cosa estiva, quindi all'aperto, aboliamo la definizione sotto le stelle, vi prego. Qualsiasi roba, all'aperto va bene, al buio, sotto la luna, ma non sotto le stelle. Taio in Trentino, 2-3 luglio, Contrada in festa, il paese chiuso al traffico per una festa a misura di famiglia. Carlo è un organizzatore, altrimenti non avrebbe mai scritto per una festa a misura di famiglia. Ancora San Casciano Val di Pesa, il nostro coro Quod Libet organizza la mini rassegna Note di notte. Andiamo però, andiamo a sentire qualcuno. Andiamo a Matera, andiamo da Antonio. Pronto Antonio? Ciao Matteo, sono Antonio. Ciao. Nessuno mi conosce con questo nome, il mio nome è Lazzaro, tutti mi conoscono così. Perché sei un cantante? Perché sono un grafico pubblicitario, sto organizzando un evento con degli amici a Montescaglioso in provincia di Matera. E che evento è? E che evento è? È musica reggae e rock, 36 ore di musica reggae e rock. Ininterrotta? Ininterrotta. Aia, una bella sassata 36 ore. Antonio, scusami un secondo. Musica reggae e rock cosa vuol dire? Che c'è è un po' reggae e un po' di rock o sono le due messe insieme? Diciamo un 90-10. 90-10 reggae? 90% reggae, 10% rock, ma i gruppi rock. Ma senti, no? Ma il reggae, perdonami, Antonio, perdonami, ma sì. Il reggae su di me fa un po' quell'effetto che dopo due minuti a posto così. Io quindi, sono del 10% rock. Tu sei del 10% rock, va bene. Antonio, parli col 10% dell'organizzazione. Dammi le date e poi ti saluto. 12 e 13 agosto, Montescaglioso, provincia di Matera. Ciao, grazie mille, buona serata. Ciao. Ciao Antonio, andiamo da Sergio in provincia di Udine. Pronto Sergio? Pronto, buonasera. Ciao, buonasera, che festa organizzi? Allora, insieme alla Proloco di Pueris, che è un piccolo paesino nel comune di Magnano e Riviera in provincia di Udine. Sì. Vicino al Tarcento, se qualcuno sa la zona. Vabbè, insomma. L'Alto Friuli, comunque. Sì. Facciamo la festa dei Croz, che sarebbero la festa delle rane. Croz, la festa dei Croz in friulano sarebbe la festa delle rane. Dimmi le date, Sergio. Allora, sabato 25, domenica 26, il primo e 2 luglio e il 3. Poi il 9, il 10, il 3 c'è la marcia lunga, poi il salto dal crop che sarebbe il salto sempre della rana, poi c'è la partenza con le biciclette del pedal dal crop, sempre biciclette. Sergio, scusami, tu sei tra gli organizzatori, giusto? Anche. Mi dici quanti anni hai? Io 54. E che cosa fai nella vita? Operaio metalmeccanico. Sì, ok, perfetto. Sergio, ti ringrazio moltissimo. Comunque abbiamo le rane fritte, tutto rane, grande. Calamari. Non molla, abbiamo tutto. Sergio, grazie davvero, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Sergio non era un tipico ascoltatore, ha solo sentito e ne ha approfittato per la soletta. Adesso la borsa e poi io sono qui. Poi domenica sono successe due cose. Sapete come sono le mamme, no? Un po' come i papà per le figlie femmine. Quella spensieratezza un po' sconsiderata che si fa. E io che mi ero convinto che i gusti fossero mutevoli. Che quello che ci piace ci definisce. Dice chi siamo e quello che possiamo diventare. Ma voi, esattamente dove siete? Io sono qui è stata la storia di una vita riassunta in 10 mesi di programma, ma basterà una sola sera per ripercorrerla tutta. Io sono qui live, giovedì 23 giugno 2011, un anno di diretta in una serata dal vivo. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao. E sto qui. Nella foto di oggi siamo in mezzo ad uno studio probabilmente matto e disperatissimo, o pazzo e disperatissimo, matto e disperatissimo. Leopardi, Bonini, Leopardi. Allora, siamo nel mezzo dello studio. C'è un quaderno e ci sono dei libri aperti. Ci sono delle penne, molto costose ma molto belle, e ci sono proprio degli esercizi, direi, di algebra. Il banco, la spensieratezza dei compagni più giovani e la tensione ritrovata dei vecchi giorni di scuola. Dopo 12 anni cerco di ultimare un capitolo che avrei dovuto completare tempo fa, ma allora non ero maturo. Ora sì, oggi io sono qui. 12 anni dopo, ci vuole del coraggio per farlo 12 anni dopo. Vi dico solo che le notizie principali dello sport sulla TV accesa qua sono la maturità dei calciatori diciottenni. 80024 0024, credo sia matto e disperatissimo. Viola, Leopardi, anni di studio matto e disperatissimo. Sette anni addirittura, mi dice Viola Bottoni. Scusate, il mio passatempo preferito di oggi è questo. VZ, installazione, manutenzione, impianti elettrici, civili e industriali. Autofficina 2000 di Castellani Fabio. Ma ancora macelleria Faentina, lavorazioni artigianali delle carne suine. Questi sono tra gli sponsor di Oriolo di Sera. Caroli Giovanni, prodotti petroliferi, carburanti agricoli, gasolio, oli lubrificanti. 80024 0024. Tutti quelli che stanno organizzando dei festival, delle serate estive, qui partiamo con, solo per il nome, Isidoro da Cremona. Pronto Isidoro? Isidoro presente. Matteo presente. Complimenti per la trasmissione. Sono qui che sto vedendo il Po dal Belvedere e quindi niente. E quindi hai pensato di chiamare Isidoro, hai detto? Sì, perché siamo qui. Sicuramente stavo dando in macchina, sono la trasmissione che ascolto spesso. Che cosa però, fai? E che cosa faccio nella vita? La vita insegno in Conservatorio di Piacenza e da anni dirigo gruppi vocali strumentali, fra i quali soprattutto il continuo, e da qualche tempo stiamo organizzando delle serate estive di musica barocca che, devo dire con grande stupore, seguitissime e frequentatissime. E dove saranno le prossime serate, Isidoro? Le prossime serate saranno in agosto nella Cascina Bugatti di Gerre dei Caprioli, che è un borgo qui vicino a Cremona, e sarà il 7, 14, 21 e 28 di agosto. Senti, ma la musica barocca è quella che si suona con gli strumenti, quelli con le corde di budello? Di budello ancora. Sì, infatti abbiamo il gruppo è dotato di strumenti antichi. Ma è vero che le corde di budello, adesso fingo vana erudizione, per via dell'umidità vanno continuamente accordate? Non solo per l'umidità, è chiaro che hanno un deterioramento maggiore di quello di acciaio, questo è fuori discussione. Senti Isidoro, mi dici il nome di un compositore barocco? C'è solo a scegliere in Italia soprattutto. Dimene uno perché non lo conosco. Da Vivaldi a Marcello a Corelli, non so, sforziamoci un po', diciamo anche Monteverdi, seppure rinascimentale e via. Benissimo, guarda, volevo solo sentire il suono di questi nomi. Isidoro, ti ringrazio molto, ti auguro buona giornata e in bocca al lupo. Anche a voi, grazie ciao. Di cuore. Grazie, ciao. Andiamo in provincia da Ferrara da Gianpietro. Pronto Gianpietro? Ciao Matteo, buonasera. Buonasera, dimmi che è vero che tu organizzi il concorso Miss Tagliatella. Sì che è vero, è la sesta edizione pure. E comincia questa sera, io ti tu ascolto pensi. Sempre, non chiamo mai la radio, ma oggi era impossibile. Non hai potuto farne a meno? No, non ho potuto farne come a meno. Come funziona il concorso Miss Tagliatella? Ah, il concorso Miss Tagliatella funziona che noi andiamo per piazze e paesi tra Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, in ogni dove facciamo le gare ci sono le signore o i signori che hanno la passione della sfoglia tradizionale che vengono a tirarla in piazza. Sì. Noi abbiamo le nostre giurie che valutano sia la sfoglia sia la tagliatella cotta col sugo, se no poi dov'è tutta la gioia. Certo. E i vincitori delle singole gare li portiamo a Bologna Bologna l'8 dicembre per fare la disfida finale. Quindi è una cosa lunga che arriva fino all'8 di dicembre. È una cosa che arriva fino all'8 di dicembre, assolutamente. Ma il vincitore cosa vince, Gianpietro? Il vincitore vince il trofeo Enzo Tassi, che era un famoso gastronomo e ristoratore dell'Emilia Romagna. Gianpietro, dici solo gli orari di stasera, poi ti saluto. Comincia alle 21 a Reno Centese, in provincia di Ferrara. Grazie mille, buona giornata. Ciao Matteo, grazie. Ciao, a te. Ciao, grazie. Andiamo a... No, la serata del raviolo, magari dopo. Festa Hard Rock, andiamo da Samuele, provincia di Modena. Pronto Samuele? Non c'è, è caduto. Sì, pronto? Ci sei Samuele? Sì, ci sono. Ciao, grazie mille per essere qui. Senti... No, niente. Allora, cosa vuol dire festa Hard Rock della birra? Allora, è una festa che è iniziata nel 96, con solo il primo anno aveva un altro nome. Poi dopo è diventata festa della birra e da quest'anno la chiamano Hard Rock Beer. Comunque sempre festa della birra in realtà. Che cosa c'è? Che programma, che cartellone c'è? Allora, il programma che finisce venerdì sono vari cover band di vari gruppi. La serata principale è stata ieri, che era il Rutto Sound, gara internazionale di Rutto. No, cos'è? Ma come? E chi ha vinto, Samuele? Beh, dipende, perché c'è Rutto in lungo, Rutto di potenza, Rutto parlato. Samuele, dimmi solo un'altra serata, ti prego, dimmi solo una delle serate. Mi sto già imbarazzando da morire. Un'altra serata, quella che è venerdì, che c'è Nevrus, quel personaggio che è uscito da X Factor, che è delle parti nostre. Bene. Con il suo gruppo Le Ossa, che fa la musica un po' sballata. Ah, beh, immagino. Samuele, grazie, buona giornata. Grazie. Andiamo da Renato, dalla provincia di Alessandria. Pronto Renato? Ciao Matteo. Ciao. Senti, volevo dire, ho sentito che hai sorriso la serata del raviolo, ma... No, ma guarda, adesso credo che dopo la serata del Rutto, la serata del raviolo... No, la serata del raviolo bisogna vedere dove si tiene a Gavi, in provincia di Alessandria, okay. Al confine col Genovesato, quindi zona tipicamente ancora ligure. Quando comincia, Renato? Comincia il 9 di luglio e il 9 e il 10. La particolarità importante, secondo me, è che la leggenda narra che a Gavi nacque il famoso manufatto, cioè il raviolo, la bettola della famiglia Raviolo. È questa, una leggenda, ma noi ci vogliamo... Renato, però questa del raviolo mi pare che ve la giocate con altri 4-5 comuni, o sbaglio? Ma guarda, noi siamo l'unico comune che ha lo stemma araldico della famiglia Raviolo con descritta la rotella del raviolo nello stemma stesso, questo certificato da una società araldica. Ma sei il sindaco, Renato? Sei il sindaco? No, non sono il sindaco. Io sono il cancelliere, visto che hai parlato delle associazioni enogastronomiche, sì. e confraternite enogastronomiche. Tu sai che in Italia c'è una federazione. Lo so Renato, guarda, purtroppo devo chiudere, però dimmi, ripetimi solo le date. Il 12 luglio a Gavi. Grazie mille. Provincia di Alessandria. Grazie, dove è nato il raviolo. Dove è nato il raviolo. Grazie mille. Credo che una puntata più surreale di questa sia difficile trovarla. Ed ora il racconto che vi racconta. Il diritto nel cinema. Questo è il titolo dell'articolo che avevo in mente di scrivere. Avevo organizzato tutto e quella sarebbe stata la mia grande occasione per farmi notare dalla direttrice del giornale. Era una splendida giornata di maggio a Ravenna. E io avevo appuntamento alle 15 in punto con un professore che mi faceva tremare le gambe. Arrivò puntualissimo. Io accesi il registratorino che porto sempre con me e via con l'intervista. Quando lo spensi, la sorpresa. «Ha mai visto la Basilica di Sant'Agata?» mi chiese. Io risposi che no, non ero di Ravenna e non conoscevo bene le zone più note del centro. Il professore pagò il conto, uscimmo e mi portò a visitare la città, dimostrandomi che un'intervista può avere risvolti inattesi e magnifici. Il mio articolo sarebbe stato pubblicato in 5 numeri, uno per ogni film analizzato. Ecco, quel pomeriggio io premisi a me stessa che non importava quanto tempo mi ci sarebbe voluto, ma sarei diventata una giornalista. Matteo, a Rutto Sound ci sono mediamente 20.000 persone come pubblico, e questa, secondo me, la dice lunga. Sto organizzando la grigliata d'estate condominiale, va bene? No, chiudo con la telefonata di Chicco, che non ho potuto prendere, che sta promuovendo la festa al Colesterolo Party, che si fa il 30 luglio a Forlì. Grazie a Stefano D'Andrea, a Tiziano Bonini, a Filippo Aureggio, neopadre, e a Viola Bottoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?